Freud sosteneva la tesi che per il bambino gli escrementi sono un dono, una parte di sé da consegnare ad altri soltanto dopo aver appurato che questi altri se lo meritano davvero. Se così stessero, le cose orfani e stitichezza costituirebbero una coppia inscindibile e certe mie conoscenze coprirebbero d'amore chi gli sta accanto con una dovizia perlomeno imbarazzante di cui questi ultimi farebbero volentieri a meno. Tra il 1938 e il 39, Jean-Paul Sartre scrive e pubblica Il Muro, una raccolta di racconti in cui figura l'infanzia di un capo. L'infanzia di un capo è la storia di Lucien, che è modellato sugli incubi dell'epoca, esemplifica di fase in fase la genesi dell'autorità, fino al momento in cui, nonostante il sordido risultato a cui è giunto, si accorge allo specchio di avere ancora un grazioso visetto ostinato che ancora non era abbastanza terribile, e decide di lasciarsi crescere i baffi. Così conclude Jean-Paul Sartre. Bene, questo capo prossimo a venire, da piccolo veniva messo sul vasino dalla mamma, che in questo fatidico momento della bisogna gli teneva la manina mentre lo incoraggiava. Spingi Lucien, spingi tesoro mio. E un bel giorno lui, ansante, interruppe lo sforzo per chiederle: ma tu sei proprio davvero la mia mamma almeno? Come se fosse colto dal dubbio e dall'esigenza conseguente di accertarsi del destinatario prima di lasciare il proprio dono. Apprendo dai giornali che in questi giorni negli Stati Uniti d'America ferve il dibattito in un mondo pediatrico diviso come non mai. A 2 anni, imporre o non imporre il vasino? Direbbero le statistiche che 40 e passa anni fa il 92% dei bimbi a 18 mesi erano già seduti su questa tipologia speciale di contenitori. Poi, a quanto pare, la ventata anti-autoritaria del 68 se li portò via, e non oso pensare in quali e in quante parti della casa venissero depositati gli escrementi dell'infanzia liberata. Prendendo Jean-Paul Sartre alla lettera ed estendendo la pericolosità del suo esempio all'umanità intera, i vasini furono messi al bando dell'americano consorzio civile. Date alla mano, insomma, se è probabile che sia toccato a Clinton, è difficile che sia toccato a Monica Lewinsky. Ora, invece, l'uso del vasino torna in auge e, per il bene dell'umanità, c'è da sperare almeno che nessuna mamma tenga la manina di chi ci sarà seduto sopra.